Allora, buonasera a tutti e a tutti per una nuova puntata di Entropia Massima e di nuovo questa sera la puntata sarà a cura di Assud, quindi stiamo con Marika e Alessandra che questa sera ci parleranno di economia circolare, quindi lascio subito la parola a Marika per iniziare questa nuova trasmissione. Qui sulle frequenze di Radio Onda Rossa, che ringraziamo per concederci sempre degli spazi importanti per parlare delle nostre sfide, delle nostre battaglie contro i mulini a vento, e questa volta lo facciamo per raccontarvi un progetto che abbiamo lanciato proprio 2 settimane fa, il 5 dicembre scorso, che segna un po' anche un passaggio che abbiamo voluto fare come Assud e come CDCA, che è il nostro centro di documentazione sui conflitti ambientali. Il CDCA ha compiuto 10 anni da poco, 2 mesi fa, e noi ci siamo sempre occupati, come gli ascoltatori di questa radio sanno bene, di mappare e denunciare gli impatti negativi del modello estrattivo, produttivo e di smaltimento. Questa volta, dopo 10 anni, senza chiaramente mai lasciare la frontiera della denuncia e dell'accompagnamento delle comunità colpite, abbiamo deciso di dedicare le nostre energie anche a raccontare l'alternativa in marcia. E lo abbiamo fatto lanciando un progetto che si chiama appunto Storie di Economia Circolare, un progetto che racconta che si può fare nel nostro paese anche un'economia sana, un'economia cioè che rispetti i diritti, che tuteli l'ambiente e che valorizzi i territori. Questo progetto ha costruito 2 strumenti, lo abbiamo fatto assieme ad un partner importante che è Ecodom. Ecodom è il più grande consorzio in Italia che si occupa di recupero dei RAE, che sono i rifiuti elettrici ed elettronici, ovvero i cellulari, i computer e tutto ciò che non usate più e che buttate via, e lo abbiamo fatto costruendo 2 strumenti che vorremmo davvero fossero degli strumenti per i cittadini. E uno strumento molto importante è l'Atlante dell'economia circolare. Sapete che noi abbiamo una fissazione per gli Atlanti, ci piace raccontare attraverso delle mappe quello che avviene nel mondo. Questa volta ci dedichiamo al nostro paese, invece di mappare conflitti ambientali mappiamo appunto delle imprese o delle associazioni che fanno economia circolare. Qui con noi c'è Alessandra De Santis, una preziosissima pedina di questo progetto, di questa sfida, che ci ha tenuto svegli giorni e giorni e che ha coordinato l'equipe di ricerca che ha mappato queste 105, mi pare che siano ad oggi, imprese che appunto raccontano come si può fare economia diversamente. Quindi Alessandra, raccontaci come è stato costruito questo Atlante e lo sforzo che ci è voluto per arrivare il 5 di dicembre con tutte 100 le storie che ci eravamo prefissati di raccontare. Buonasera a tutti e ringrazio Marika per avermi dedicato questo spazio. Allora, noi siamo partiti dalla definizione classica di economia circolare, che è quella coniata dall'Ellen MacArthur Foundation, e secondo cui l'economia circolare è un termine per definire un'economia pensata per potersi rigenerare da sola, ovvero un nuovo modo di pensare l'economia attraverso il riutilizzo delle materie prime e il riciclo della materia. E un nuovo modo di immaginare prodotti e processi di produzione virtuosi, poco impattanti, equi e dall'alto valore anche sociale e territoriale. Quello che noi, il ragionamento che abbiamo fatto è stato quello di partire da questa definizione, ma andare a indagare altri criteri dal quale poi abbiamo elaborato insieme al nostro comitato scientifico un questionario da sottoporre alle aziende. L'economia circolare è dunque un sistema economico che non solo riduce al massimo gli sprechi durante i cicli produttivi, ma che diciamo si occupa di progettare in maniera circolare, in chiave circolare, un bene, un prodotto. E sulla base di questi assunti abbiamo elaborato una griglia di criteri, una griglia in cui abbiamo individuato 10 dimensioni di circolarità. Quindi siamo partiti dall'eco design, che appunto è progettare i prodotti pensando fin da subito al loro impiego a fine vita, quindi con caratteristiche che ne permettano lo smontaggio o la ristrutturazione alla fine della vita, quindi in realtà allungare il fine vita di un prodotto, Poi l'utilizzo dei materiali, cioè utilizzare materiali che siano non materia prima vergine, ma materiali chiamati materia prima seconda, appunto ottenuti dal recupero del precedente, del materiale smontato. E diciamo, poi le altre 10 dimensioni sono l'energia e il consumo. Un'azienda che è sostenibile, che si definisce sostenibile, se non fa del greenwashing, non solo si occupa appunto di progettare in chiave circolare, ma rende efficienti i propri consumi energetici. Quindi anche l'approvvigionamento delle fonti energetiche è una cosa che andiamo a indagare con il questionario. C'è poi la gestione dei rifiuti e degli scarti del proprio ciclo produttivo. Vengono recuperati internamente oppure l'azienda si preoccupa di trovare un'altra azienda che è impegnata anche in un altro settore dal quale far riutilizzare i propri scarti produttivi affinché non finiscano comunque subito in discarica ma siano ancora utilizzabili. I trasporti, la gestione della logistica, quindi l'azienda quando distribuisce i propri prodotti o l'associazione fa il recupero di un determinato di scarti per esempio alimentari, è attenta a massimizzare il trasporto, nel senso i camion vengono fatti viaggiare semi vuoti oppure prima di far partire un camion l'azienda si preoccupa di riempirlo così da diminuire le emissioni di CO2 dovute ai trasporti e alla logistica. La filiera è circolare, c'è attenzione alla filiera, chi sono i miei fornitori, controllo che siano anch'essi attenti all'ambiente, alla sostenibilità della proprio ciclo produttivo. Poi abbiamo il valore condiviso e la comunità territoriale. Come associazione, azienda, mi preoccupo di creare valore territoriale, cioè, contribuisco alla crescita economica del mio territorio. La gestione ambientale e reporting, quindi sto attento a redigere un bilancio sociale, un bilancio ambientale della mia attività. E infine l'inclusività sociale, sono un'azienda che nell'assunzione nel proprio organico include soggetti svantaggiati o do opportunità di inserimento lavorativo a persone che vengono da una situazione sociale complessa. Quindi sono tutta una serie di dimensioni che secondo noi sono fondamentali per definire. Quindi questi che hai riportato sono i parametri secondo i quali voi diciamo fate una valutazione di quanto un'azienda, un gruppo è economicamente circolare. Sì. Giusto? Sì. Come concetto, nel senso su questi parametri, poi questi parametri si possono applicare a varie tipologie di aziende, giusto? Sì. Sì, quello che diceva Alessandra è importante, è che noi abbiamo voluto proprio pensare ad una nostra definizione. C'è moltissimo greenwashing in giro, cioè realtà che fanno economia nera, che però si ammantano di verde per catturare l'attenzione del consumatore. Pensiamo a grandi colossi, quindi l'importante era dare una nostra definizione. Scusami se ti interrompo, ma ne dico una piccolissima che è meravigliosa e stiamo pensando comunque di farci una puntata anche su questo. Lavorando a scuola, Acea e Enel fanno dei gruppi per i ragazzi su risparmio energetico e risparmio idrico, e è una cosa che fa venire i capelli dritti, nel senso che standoci dentro si vede come veramente è il greenwashing proprio più bieco, perché poi è fatto appunto sulla pelle dei ragazzi, delle famiglie, che è impressionante. E succede, è così. E assolutamente, proprio per evitare questo noi abbiamo voluto fare questo lavoro. Ricordiamo anche chi ci ha aiutato a farlo: questo comitato scientifico, un comitato scientifico di alto livello. Abbiamo coinvolto i ricercatori di Poliedra, per chi non lo conoscesse, è il consorzio di ricerca ambientale del Politecnico di Milano. Abbiamo coinvolto gli economisti ambientali della Fondazione Ecosistemi, che si occupano di fare consulenza alle aziende per massimizzare la compatibilità ambientale dei loro cicli produttivi. Abbiamo partecipato noi come centro documentazione conflitti ambientali, perché abbiamo ormai un'expertise decennale nel lato negativo, cioè in cosa avviene bene a livello di impatti territoriali, di impatti sociali quando un'impresa non è sostenibile, e poi chiaramente Ecodom, che è appunto il consorzio che si occupa di recupero dei RAE. Ma mi sono resa conto che stiamo parlando da un quarto d'ora, non abbiamo ancora detto dove potete trovare questo Atlante, quindi ricordiamolo ai nostri ascoltatori, il sito è www.economiacircolare.com, lì c'è questa piattaforma che potete utilizzare con molta facilità. Abbiamo pensato di farlo funzionare nella maniera più intuitiva possibile, abbiamo individuato 13 categorie che vanno dall'edilizia all'abbigliamento alla cartoleria, servizi per i rifiuti, dai mercati fino all'agroalimentare, quindi potete trovare attorno a voi, perché l'altro indicatore che abbiamo utilizzato per la ricerca sono le regioni, quindi potete trovare attorno a voi chi effettivamente fa economia circolare appunto nel nostro paese. Ci auguriamo che lo possiate usare anche ad esempio adesso che il consumismo è alle porte, Natale incombe, quindi se proprio volete fare un regalo, volete spendere tanto, fate almeno in modo di valorizzare quelle imprese che fanno economia salvando il pianeta. Quindi il fatto è, ci state raccontando che è una ricerca che avete fatto, è un progetto che però ha anche il, diciamo, il suo lato utile, nel senso ha un utilizzo diretto, che si può appunto ci si può accedere, facilmente utilizzare, consultare, che non è una di quelle solite sterili ricerche che rimangono sulla carta e che, ma che come il CDCA sui conflitti ambientali, insomma, è qualcosa di consultabile, di utile. Assolutamente sì, infatti noi come dire, cerchiamo di risparmiare il più possibile la carta. Moltissimi ci chiedono, ce lo chiedono ancora sull'Atlante dei conflitti ambientali, dove si può acquistare. Ecco, non si possono acquistare questi strumenti, perché questi strumenti sono online, sono disponibili per tutti, quindi vi ricordo economiacircolare.com. E se volete vedere anche The Dark Side of the Italian Economy, potete vedere l'Atlante italiano dei conflitti ambientali, per vedere quanti danni fanno le imprese che invece depredano i territori e contaminano anche le comunità. E allora direi che facciamo una prima breve pausa musicale per poi tornare in linea e con numerosi ospiti. Forse un giorno nel futuro dell'umanità, forse un giorno ci sarà davvero libertà, forse un giorno quando Babilonia brucerà, forse un giorno la pace ovunque regna. C'è sta pace e rispetto, io sogno un mondo migliore dove per tutti ciò che conta è l'amore. Sogno un mondo dove non esistono l'odio e la guerra, dove ognuno è un libero abitante della terra in piena armonia con tutto ciò che lo circonda, senza bisogno di nessuno che comanda, senza nessuno che te prega o che senza aver paura di non essere all'altezza, senza ipocrisia noi ci guarderemo in faccia, questa è la mia speranza. Forse un giorno nel futuro dell'umanità, forse un giorno ci sarà davvero libertà, forse un giorno quando Babilonia brucerà. Ovunque regnerà. Magari un giorno ci sarà la libertà per tutti quelli che vivono su sta terra. Ognuno vivrà secondo le sue capacità, nella pace, nel rispetto, nell'uguaglianza. Nel cuore nutro ancora la speranza che ci sia gente che voglia ancora cambiare qualcosa, che continua la sua lotta, non si rassegna mai. Lo voglio ancora sperare. Dammi, dammi la pace, dammi la libertà, te prego. Dammi, dammi la pace, dammi la libertà, te vive. Dammi, dammi la pace, dammi la libertà per tutti. Dammi, dammi la pace, dammi. E senza la disoccupazione, dove per tutti c'è una casa in cui abitare, dove nessuno mai soffre la fame, dove nessuno è costretto a rubare, senza il potere, senza la repressione. A war. Sogno un mondo dove te puoi fare una canna tranquillo, per strada senza rischio di bevuta. Sogno un mondo dove ci stanno i coffee shop pure a Roma come ad Amsterdam. Voglio ancora continuare a sperare un mondo migliore, con la gente che va ci guarda attraverso l'occhio dell'altra persona, da vedere diversità, senza tanto giudicare la complessità in maniera superficiale. Voglio ancora sognare un mondo di libertà, dove ciò che conta non è la competizione ma la solidarietà nei rapporti umani. E in tutte le altre attività dobbiamo essere uniti, nonostante le diversità. Mi senti liberi, liberi, liberi, liberi, liberi vorremmo stare. Uniti, uniti, uniti, uniti, superare le difficoltà. Forse un giorno nel futuro dell'umanità, forse un giorno ci sarà davvero libertà. Forse un giorno quando Babilonia brucerà. E allora questi erano i Villada con Forse un giorno. Siamo di nuovo in diretta, siamo di nuovo in voce con Entropia Massima, con oggi Assud che ci parla di economia circolare, e abbiamo un ospite. Ci senti? Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Sono Carlo De Santis di Equevento Onlus. Buonasera Carlo. Carlo è uno degli ideatori di Equevento, una delle realtà presenti sul nostro atlante italiano dell'economia circolare. Equevento è un'associazione no profit che è nata nel 2014 a Roma con lo scopo di recuperare il cibo in eccedenza dai grandi eventi come congressi, matrimoni e eccetera. Chiediamo direttamente a Carlo di raccontarci la realtà di Equevento. Allora sì, come hai accennato, Equevento è un'associazione senza scopo di lucro che nasce 4 anni fa a Roma durante un matrimonio, dove ci siamo resi conto, un gruppo di amici di cui faccio parte anch'io, ci siamo resi conto che durante gli eventi, proprio per la loro natura, cioè per il fatto che difficilmente è possibile prevedere il numero di persone che vi partecipano e quanto vanno a mangiare, durante gli eventi succede spesso che c'è una grandissima quantità di cibo eccellente che viene prodotta in surplus, in eccedenza. Prendendo atto che tutto questo cibo che veniva prodotto veniva anche gettato, perché per alcuni motivi normativi i catering erano obbligati a buttare questo cibo, abbiamo studiato la situazione normativa e abbiamo scoperto che era possibile recuperarlo donandolo ai fini caritativi. Quindi abbiamo costituito l'associazione nel 2014, abbiamo acquistato un furgone per il trasporto di alimenti e abbiamo iniziato a proporci a sposi, in realtà che lavorano nel settore del catering, e da lì è iniziata appunto l'attività di Equevento. E vi do subito un po' di numeri per darvi un'idea di come è cresciuta la nostra associazione. 4 anni fa, quando siamo partiti, abbiamo fatto il primo evento il 6 aprile del 2013. Da lì abbiamo fatto oltre 500 ritiri, recuperando più di 150.000 pasti. L'idea è iniziata a Roma, l'attività è iniziata nella città di Roma, ed oggi Equevento ha delle sedi anche a Milano, Torino, Lecce e recentemente anche Madrid e Parigi. Okay. Quest'anno avete ricevuto un premio nella Roma Innova Bene, giusto? Scusate, non riesco a sentire. quest'anno Equevento ha vinto un premio, il Roma Best Practice Award, nella sezione Roma Innova Bene. Sì, quest'anno nell'occasione del primo Roma Best Practice abbiamo avuto la fortuna di vincere il premio come una delle migliori idee nell'economia circolare della capitale. Questo è stato chiaramente un motivo di grande orgoglio. Successivamente a questo premio abbiamo avuto anche un altro riconoscimento molto importante. Ad ottobre siamo stati selezionati come best practice italiana per rappresentare l'Italia durante la giornata mondiale per l'eliminazione della povertà, e quindi a ottobre siamo andati a Bruxelles per parlare della nostra associazione e rappresentare l'Italia in questo evento. Complimenti Carlo. E invece sulla scia di questi eventi positivi, quali sono i progetti per il nuovo anno? Scusate, non riesco a sentire bene. Ci chiedevamo, visto gli eventi positivi del 2017, quali sono i progetti che avete per il nuovo anno? Sì, dunque, quest'anno abbiamo iniziato una nuova collaborazione insieme ad un'altra associazione che si chiama Vale la Pena. Quest'altra associazione si occupa di inserire lavorativamente detenuti nella fase di fine pena. Praticamente il 70% dei detenuti che non vengono inseriti in progetti di inserimento sociale finiscono nuovamente in carcere, e questa associazione praticamente si occupa di insegnare a questi detenuti a fare la birra in modo tale da avere una professionalità ed evitare che tornino in carcere. In cosa consiste la collaborazione con Vale la Pena? Equevento recupera cibo, Vale la Pena recupera persone attraverso la birra. Abbiamo fatto una linea di birre che si chiama Recuperail, e queste birre vengono fatte con cibi destinati ad essere scarto alimentare. La prima birra che abbiamo fatto è fatta infatti con il pane. Facciamo la birra con il pane. Grazie Carlo. Bellissimo. No, scusami se intervengo. Cioè, usate il pane come lieviti per produrre birra. Esattamente. Prendiamo il pane secco, ottimo, che è semplicemente solo secco, non è assolutamente un pane in decomposizione. Mm-hmm. Prendiamo il pane, lo infiliamo nella produzione della birra. Questo fa sì che venga fuori una birra molto particolare, che sa di pane, sa di crosta di pane. Quindi noi la chiamiamo la birra che recupera cibo e persone, perché appunto proviene dal cibo recuperato e tende a recuperare le persone che vi lavorano nella filiera. E ti posso chiedere un po' le quantità, per curiosità? Le quantità di pane, sì, che vengono buttate? Sì, di che produzione si tratta? Cioè, quanto pane trattate per quanta birra? Per pura curiosità. Allora, abbiamo fatto... Sì, assolutamente. Allora, abbiamo fatto la prima cotta, che è pronta da una settimana. La prima birra è stata presentata lunedì scorso durante un evento che abbiamo organizzato. Per fare una cotta con 1800 litri vengono recuperati circa 200 kg di pane. Al momento è possibile già acquistare questa birra, ovviamente tutti i ricavati provenienti dalla vendita di questa birra vengono devoluti alle due associazioni per svolgere la loro attività. Quindi parliamo di circa 200 kg di pane per 1800 litri di birra. Beh, interessantissimo veramente come processo e come riuso, assolutamente. Tutti gli ascoltatori che se organizzano dei grandi eventi o comunque degli eventi anche personali e vogliono partecipare a questo bellissimo progetto che effettivamente risponde ad uno dei grandi scandali non solo italiani ma globali, che è lo spreco alimentare, laddove invece abbiamo tantissime persone in emergenza economica che non riescono appunto a mettere assieme il pranzo con la cena, c'è questa bellissima realtà sul nostro territorio che si chiama Equevento, che può essere contattata per partecipare appunto a

bella borgata dove il razzista la sua bara. Amo anche predestino l'apicale, se sei con noi adesso alza la tua mano. Ora il lago ha vinto, sei stabilizzato, è il lago di tutti, non è un lago privato. Ha invaso il cemento armato e ci ha chiesto aiuto, noi l'abbiamo immaginato, amato e conosciuto. In mezzo ai mostri dei cemento, stacco amori, flette il cielo, è la natura che combatte, il tuo quartiere è meno nero. In mezzo ai mostri dei cemento, il lago è un sogno che s'avvera, è la natura che resiste, stanotte Roma è meno nera. E allora questo era Il lago che combatte, degli Assalti frontali e Muro del Canto, un tema che ci sta a tutti molto a cuore. E abbiamo in linea un nuovo collegamento, ripasso la parola a Sud, siamo sempre su Entropia Massima. Sì, e quindi vi raccontiamo un'altra storia, un'altra bella storia che appunto è nata, in qualche modo si è sviluppata qui a Roma, ed è la storia di BAG. BAG è uno studio di progettazione che si occupa di architettura sostenibile, quindi diciamo lo slogan che abbiamo trovato per questa bella storia è costruire secondo natura, e abbiamo qui con noi stasera in diretta Paolo Robazza, che un architetto che appunto da ormai diversi anni, ma ce lo dirà meglio lui, si è imbarcato in questa bella impresa. Ciao Paolo, benvenuto, raccontaci un po' la storia incredibile di BAG. Ciao, buonasera. Brava, hai detto bene imbarcato in questa impresa, nel senso che è proprio un'impresa un po' avventurosa, nel senso che è da qualche anno che stiamo cercando di lavorare in questo settore difficile che è la bioarchitettura, bioedilizia, e specificamente noi ci occupiamo di strutture in paglia, cioè sono strutture che sono case che al posto del mattone, diciamo, utilizzano le balle di paglia, quelle che il contadino scarta dopo la lavorazione del grano. Che voi avete, diciamo, costruito, perché questo ormai lo sappiamo da tempo, peraltro la prima casa in paglia all'interno di un contesto urbano, quindi c'è questa bellissima casa in paglia nel quartiere Quadraro a Roma, giusto? Sì, l'abbiamo completata ancora qualche anno fa, nel 2012, in quindi adesso è abitata e super collaudata. Infatti una dei risultati più belli sono è la soddisfazione dei due abitanti che la vivono da 4 anni e che pagano 100 euro di bolletta per il riscaldamento all'anno. Quindi questo è uno dei vantaggi della casa di paglia, cioè è un vantaggio individuale, nel senso rispetto a chi la abita, cioè di essere molto isolata e quindi risparmiare energia, ma poi è anche un vantaggio in realtà per dalla comunità alla società, nel senso che il risparmio di energia significa anche inquinare meno, e quindi sostanzialmente abbiamo fatto una ricerca di recente che una casa di 100 metri quadri costruita in paglia rispetto a una costruita in mattoni emette 40 volte CO2 in meno rispetto appunto a una casa costruita in mattoni e cemento. E questa è una cosa molto bella, il pianeta vi ringrazia, ma mi piacerebbe che raccontassi anche un'altra particolarità di BAG, cioè voi oltre a costruire fate dei vostri cantieri un vero e proprio momento di socialità ma anche di formazione, organizzando dei workshop internazionali attraverso i quali è possibile imparare anche i lavori di costruzione. Raccontaci un po', com'è nata l'idea di questi cantieri? Allora, l'idea di questi cantieri è nata da un cantiere che abbiamo utilizzato così, nel senso che abbiamo ricostruito dopo l'Aquila, dopo il terremoto all'Aquila del 2009, un piccolo villaggio, e all'interno di questo cantiere per costruire queste case abbiamo fatto venire e fatto partecipare circa 120 volontari. E da lì abbiamo capito il valore di un cantiere condiviso, cioè di un momento di costruzione collettivo in cui tutti venivano, alcuni per apprendere le tecniche di costruzione, altri per condividere un momento, per aiutare. E da lì, insomma, ci siamo un po' abituati a quest'idea di cantiere molto divertente, in cui non è solo il divertimento che paga, ma è anche proprio la formazione. Quindi giovani architetti che non hanno la possibilità fondamentalmente di apprendere queste tecniche all'università, perché si fa solo teoria, rientri nei nostri workshop e hanno l'occasione di così di imparare toccando con mano, sostanzialmente. Paolo, abbiamo avuto modo di leggere che l'esperienza di Bug si è incontrata con quella di un'altra associazione romana, che è la Falegnameria Sociale Calma. Ci racconti di questa collaborazione? Sì, allora, noi siamo stati appunto contattati da Gabriella, che è la coordinatrice, la mente, insomma, del progetto di Calma, e lei ci ha chiesto sostanzialmente di allestire, di progettare e realizzare la falegnameria, e noi le abbiamo proposto di far diventare il cantiere stesso della falegnameria un momento formativo per i migranti che, realizzandola, avrebbero già iniziato ad imparare a utilizzare, a fare le prime lavorazioni con legno e a utilizzare gli attrezzi. Quindi abbiamo progettato in funzione di poi di realizzare questa falegnameria con i migranti stessi. Grazie mille Paolo, e appunto è una delle realtà che trovate sul nostro Atlante, peraltro, diciamolo così, una nota biografica, sono anche i nostri coinquilini. Noi abbiamo un bellissimo coworking che abbiamo autocostruito al Pigneto, lo abbiamo fatto proprio seguendo le indicazioni di Paolo e dei suoi colleghi, quindi anche tutti i mobili sono costruiti da noi. Veniteci a trovare via Macerata 22, una buona occasione giovedì, quando ci faremo gli auguri di Natale, vi aspettiamo in tantissimi. Grazie Paolo. Grazie a voi, ciao. Ci tengo a sottolineare che il legno con il quale abbiamo costruito la nostra sede è legno di scarto. È perché siamo circolari dentro. Circolari dentro, nel profondo proprio. Va bene, grazie allora, e passiamo di nuovo a una brevissima pausa musicale per poi arrivare all'ultimo pezzetto di trasmissione. e mi do sigle così nella vita reale, mi aiuto e continuo a lottare. E mi do sigle così nella vita reale, mi aiuto e continuo a lottare. E mi do sigle così nella vita reale, mi aiuto e continuo a lottare. E allora ritorniamo in voce, di nuovo Entropia Massima con Assud, e questi che abbiamo sentito era Rabbia nelle vene degli Scasso. E vi volevo fare una domanda per riprendere un po' il discorso e arrivare a conclusione, che manca pochissimo alla fine. Come è nata, cioè come si è svolta la, diciamo, questo progetto, come avete contattato queste realtà che si occupano di economia circolare, del riuso, fino proprio nel midollo? Abbiamo fatto una ricerca attraverso sia rassegna stampa di magazine, giornali dedicati all'ambiente, alla sostenibilità, quindi abbiamo cercato in questa quantità di notizie i nomi di esperienze che sembravano virtuose e abbiamo controllato che lo fossero realmente, e anche attraverso altri database sparsi online abbiamo messo insieme, abbiamo fatto prima un censimento. Abbiamo poi contattato queste realtà sottoponendogli appunto i nostri criteri attraverso questo questionario che loro ci restituivano compilato, e una volta verificati i requisiti necessari abbiamo poi trasformato questo questionario nella scheda descrittiva che è associato al nome sull'Atlante. Ma quindi ce n'erano che dicevano, millantavano virtuosità che poi alla fine... Sì, non erano reali. Senza fare nomi, però no, sì, certo. Ce ne sono state, e indagando, scavando nel web attraverso delle indagini. Senza fare nomi poi anche entro certi limiti, perché... No, infatti. Però sì, abbiamo constatato che in alcuni casi i presidenti di queste aziende erano stati coinvolti in scandali vari, e quindi abbiamo depennato dalla lista il nome. Quindi avete fatto le pulci proprio nel profondo. Sì, quanto sì, è durato questo progetto? Quando è nato? È nato un anno fa e c'è stato prima tutto il lavoro sui criteri, sul questionario, e verso maggio abbiamo iniziato a contattare le prime aziende, a invitarle a partecipare e poi a verificare i requisiti. E voglio ricordare una cosa molto importante, che siccome la partecipazione è l'altra mission della nostra associazione, del nostro centro di ricerca, abbiamo immaginato anche questo strumento come uno strumento di mappatura partecipata, chiaramente non prima del lancio, ma adesso il sito è uno strumento di mappatura partecipata. Le realtà che ritengono di avere i requisiti per essere inserite nell'Atlante possono, attraverso il questionario che è pubblicato su economiacircolare.com, autocandidarsi ad entrare a far parte dell'Atlante. Chiaramente anche le nuove realtà saranno passati al vaglio del comitato scientifico, ma sussistendo tutti i requisiti la nostra idea è quella di riempire l'Atlante di centinaia e centinaia di storie, e così dimostrare che anche da noi è possibile appunto fare economia in un modo completamente nuovo e rispettoso sia degli esseri umani che del territorio. E un po' di invece i risultati di questa mappatura, un po' voi ovviamente avete numeri percentuali che a me piacciono tanto, come vi dicevo, magari non sono molto, però diciamo come in termini sì, più ampi. Allora, diciamo, facendo una fotografia dello stato attuale dell'Atlante, tra le esperienze mappate la Lombardia è al primo posto con il 21% del totale, e seguita dal Lazio che quindi in cui abbiamo, cioè, il 21% di aziende virtuose di queste prime 100, poco sulle vostre selezionate o su tutte le aziende? Sulle nostre selezionate, okay, su quelle attualmente presenti nell'Atlante. Se no, era un dato incredibile, un quarto delle aziende. No, mi sembra su eccessivo. Quelle che abbiamo attualmente nell'Atlante, il 21% sono appunto in Lombardia, seguito poi con il 15% dal Lazio, il 12% in Toscana. Abbiamo poi l'Emilia-Romagna con il 7% e il Veneto a pari merito con altrettanto il 7%, e poi troviamo via via in ordine la Liguria, il Trentino-Alto Adige con il 4%, la Puglia, il Piemonte, Marche e Basilicata con il 3%, e se invece ragioniamo dal punto di vista di una provincia, Roma è in testa con 15 esempi virtuosi, seguita da Milano in cui ce ne sono 12. Beh, non male. No, è un buon inizio, sicuramente è un, anche come dire, una maniera di spingere in qualche modo non solo i consumatori, ma anche l'idea che effettivamente questa nuova frontiera che è l'economia circolare deve essere messa a sistema, quindi non può essere una nicchia per chi produce, non può essere una nicchia per chi sceglie di consumare, ma deve diventare il modo nuovo attraverso cui si pensa e si fa economia non solo in Italia ma a livello globale. E quindi mi stavate dicendo, uno dei modi per diffondere quest'idea, per parlarne il più possibile, per farla arrivare a più persone possibile, uno dei modi appunto, oltre ovviamente al sito e anche la presenza qui, insomma, a parlarne il più possibile, avete escogitato un meccanismo che è quello del concorso. Ottimo. Quindi assieme all'Atlante, come dicevamo all'inizio, tutti si staranno chiedendo, sono due strumenti, ma il secondo qual è? Ecco, il primo è l'Atlante che vi abbiamo fin qui raccontato, il secondo è il concorso, quindi questo concorso che abbiamo chiamato Storia d'Economia Circolare risponde alla seconda esigenza che abbiamo sentito, cioè quella di educare in qualche modo, sensibilizzare anche il mondo dell'informazione affinché si occupi di raccontare anche le esperienze virtuose in corso sul nostro territorio. Questo concorso è un concorso a premi, i premi sono dei ricchi premi, diciamo, rispetto anche alle retribuzioni medie purtroppo dei giornalisti di questi tempi. Ci teniamo a dire che i premi sono offerti da Banca Etica, quindi abbiamo voluto anche avere un partner finanziario che fosse specchiato dal punto di vista appunto dell'etica. È un concorso diviso in quattro sezioni, quindi abbiamo i video, le foto, la radio, perché appunto la radio ci piace molto che le persone possano anche attraverso l'ascolto imparare a conoscere che cosa succede nel nostro paese, e poi la scrittura, questa vecchia amica che non vogliamo assolutamente abbandonare. E quindi questo è anche un appello rivolto a tutti i giornalisti, ma non necessariamente i giornalisti in senso stretto, tutti coloro che hanno a cuore il cambiamento, tutti coloro che vogliono mettersi alla prova raccontandoci delle storie potranno inviarcele entro il 31 maggio, trovano il regolamento sul sito economiacircolare.com. Abbiamo anche chiesto a quattro professionisti di raccontarci quattro storie pilota per far capire un po' qual era il prodotto che avevamo in mente, ma chiaramente c'è massima libertà da parte dei concorrenti. E poi abbiamo immaginato una fase di valutazione in due step. Prima ci sarà un voto online in modo tale che più persone possibile possano conoscere le storie raccontate dai nostri concorrenti, ma possano conoscere anche l'Atlante e il sito. E poi ci sarà una giuria tecnica di qualità di cui fanno parte Andrea Segre, che è un regista insomma affermato che tutti voi conoscete, ne fanno parte Giuseppe Rizzo di Internazionale, Giulia Tornari per le fotografie, che è una delle più affermate foto editor italiane, e Florinda Fiamma, che è una giornalista di Radio 3. In questo modo proveremo a premiare anche quelle storie che soddisfano tutti i requisiti per essere storie da mainstream. Noi vogliamo continuare assolutamente ad utilizzare tutti i nostri canali di informazione indipendente, ma vogliamo anche che l'informazione, quella diciamo che monopolizza molto spesso l'immaginario collettivo, si occupi di queste cose. E allora direi che ci siamo arrivati a conclusione e ringraziamo a Sud quindi della partecipazione, di aver curato questa puntata di Entropia Massima, in particolare sull'economia circolare. Se vuoi ricordare di nuovo i contatti. I contatti sono facilissimi, peraltro abbiamo scelto appunto una stringa che fosse possibile cercare anche per sbaglio, quindi www.economiacircolare.com. Lì trovate l'Atlante, lì trovate il concorso, trovate i nostri contatti, divertitevi e fatelo conoscere a più persone possibile. Grazie a voi. E quindi finisce questa puntata di Entropia Massima, ricordando sempre che la radio non campa d'aria, quindi invitiamo tutte e tutti a contribuire alla sua sopravvivenza, alla sua sussistenza. Quindi potete sottoscrivere al conto corrente postale 6180 4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185, Roma. E ovviamente per qualsiasi informazione, per seguire la diretta, www.ondarossa.info e ondarossa@ondarossa.info e il telefono 06 49 17 50 per qualsiasi domanda, intervento che vogliate fare. E quindi ci salutiamo, finisce qui questa puntata, ci sentiamo la prossima settimana e con A Sud ci risentiremo sicuramente più in là. Un saluto a tutte e a tutti e soprattutto a chi è privato e chi è privato della propria libertà personale.